niente, perdo sempre. Io non so, subito Super appena Mario, inizia. Ma perché secondo me il problema delle tasse è che siccome io tendo a non pagarle, lui lo riconosce, infatti vedi, mi dice certo, guarda che gli smartphone point sono in collegamento con l'agenzia delle entrate, ormai tutto in rete. Non c'è neanche più il segreto dello smartphone. No. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Questa è la 100ª puntata della seconda serie di Chiedo Asilo. Evviva, evviva, hip hip hurra, ecco. Era la 100ª serie. Centesima puntata. Era la 100ª puntata della seconda serie del quinto mese del terzo anno, del sesto giorno della grande modalità qui del predicatore. Invece prendi la modalità del festaiolo e festeggiamo sì, con una bella torta di Wunderwaffer. Sì, però non sono ancora arrivate le scorte, quindi siamo siamo alla radio, Guarda, i nostri fan su Facebook stanno già chiedendo a gran voce dove possono comprare la prodigiosa merdina svizzera, però dobbiamo sempre rispondere. Merdina, sembrava che tu avessi detto, cioè, se vai avanti così, Drago, lo sponsor viene qua e ti dai, rifacciamo. I nostri fan su Facebook stanno già chiedendo a gran voce dove possono comprare la prodigiosa merendina svizzera, però noi dobbiamo rispondere: tutto beclopto. No, niente. Vabbè, quindi per ora tenetevi la fame chimica e aspettate nuove notizie da Wunderwaffer. Wunderwaffer. Wunderwaffer. Wunderwaffer. E ora, bambini, il sonnellino. Madonna, che stanchezza. E per forza mi sveglio all'alba per prendere lo scuolabus. Se invece di essere un bambino fossi un grande calciatore, come sarebbe bello, Quello è il mio più grande desiderio. E desideri si chiedono a Gesù bambino, no? Allora, e che si fa? Caro Gesù bambino, che... E no, perché Gesù bambino è ormai tardi, no? È passata la Befana, poi arriva Pasqua, no? E poi c'è il momento della crocifissione, no? E quel momento lui c'ha 33 anni, no? Io dico, cioè, come fa ad avere 33 anni se è nato da 4 mesi, no? E quella è una roba che poi anche lì è opinabile, no? Perché dipende da se la Pasqua è alta o bassa, no? E io non so cosa vuol dire, comunque. A questo punto devo cambiare indirizzo per i miei desideri, no? E chi è che c'è che è sempre presente? Allora, caro Angelo Custode. Ecco sì, l'angelo custode, no? E lui c'è sempre. Non è che c'è solo Natale, è custode perché è custode lì apposta, no? E lui c'è sempre, E ha sempre la stessa età, non cambia mai. Non cambierei! Ah, eccolo! Eccolo! Il mio angelo custode! L'angelo il custode! No, non sei angelo il custode! Semmai noi abbiamo Gino il bidello, no? Tu sei l'angelo custode, no? Custode! Angelo! Ma no! Vabbè, allora... Tu adesso fa niente. Caro Angelo Custode, oggi è la puntata numero 100 di Chiedo Asilo. Chiedo Asilo! E vorrei tantissimo esaudire un desiderio mio, no? E cioè entrare una volta sul terreno di gioco di San Siro. San Siro, no? E poi avere la maglia rossonera, no? Col numero 10 di Seedorf, no? Di Clarence Seedorf. E di Rivera! E di Rivera. È già di Rivera, no? La stella rossonera. Grazie, Angelo Custode. Sartori! Sartori! No, Sartori no. E chi è? Tuo vicino di casa. Sartori! Comunque, caro Angelo, hai già capito? Il mio più grande sogno è quello di avere 80.000 tifosi, 80.000! Che esplodono quando faccio il mio ingresso sul terreno di gioco di San Siro. I tifosi, E poi sentire dagli altoparlanti, no? Che annunciano il mio ingresso come se fosse un eroe, no? L'eroe di San Siro. Ma hai capito? Cioè, che sogno? Angelo Custode? Sogno? È un sogno maestoso, però non un sogno di quelli che ti svegli tutto bagnato, Stadio di San Siro con il numero 10, il bambino Alberto! Ma questa è la voce di San Siro? Sì, è la voce di San Siro! Io ho capito, siamo a San Siro. Siamo a San Siro, bambino, nella casa del Milan! La casa del Milan? Allora è un sogno. Non è un sogno, bambino, è la realtà! Però adesso io sono uno del Milan, no? Al numero 10, poi ho detto. Hai il numero 10, vuoi il capitano? Vuoi la fascia? Signore e signori, il nuovo capitano! Oddio. Il numero 10! Il bambino! Alberto! Oh, madonna, è anche, sono anche il capitano! Il numero 10, capitano, come. E Rivera? No, Rivera non c'è più. No, non c'è più! Con il numero 1! Bambino! Alberto! Con il numero 2! Bambino! Alberto! Con il numero 3! Bambino! Alberto! Ma no, ma... Allenatore! Bambino! Alberto! Beh, allora... Guarda linee! Bambino! Alberto! No, ma così mi viene ansia, perché... No, non posso... Parcheggiatore! Bambino! Alberto! No, quello lo fai tu, io... Sono il Milan? Se volete il biglietto e entrare a scrocco, c'è il bambino Alberto! Beh, ma allora, che sia un sogno o no? Cioè, un sogno l'ho avuto veramente. Cioè, di fare un'azione con la maglia del Milan a San Siro, no? E allora, bambino, falla l'azione! E con la palla con il numero 9, Marco Van Basten, sulla fascia, cross! C'è libero lui! Dai. Il bambino Alberto! Prendere in giro, ho detto un'azione, facciamo un'azione, Van Basten già andava bene, mi piace anche giocare con giocatori di tutte le epoche, no? Tipo Rivera. Bambino, prende la palla a centrocampo, passa indietro, si libera Gianni Rivera, il numero 10, il golden boy, cross, no, ma, in aspetta, Rijkaard che è salito, stoppa la palla, ah, mia, Franco Baresi interviene, salta l'uomo e davanti tre pattoni, assist al centro, Rijkaard salta, ma... salta Rutguli, ma soprattutto salta il bambino Alberto! Gol! Ho segnato di testa? Sì! The gol di testa come Atley! Chi? È Mark Atley, no? Atley non lo dirò mai! Vabbè, ha fatto il gol nel derby! Tu. Non lo dirò mai! Dimmene un altro! E facciamo... Ah già, perché magari è antipatia. Calloni. Bambino! Calloni è una mummia! Allora, facciamo il bambino, facciamo l'altro bambino, facciamo Shevchenko. Ti prego, facciamo Shevchenko, fai che ero... Che io ero 7, ero ucraino anch'io, io ero un suo... Fammi fare un gol con lui. È freddo, San Siro, ultimi secondi di Champions League. Madonna, la Champions League! L'Ucraino Andrii Shevchenko! Salta l'uomo, ne salta un altro, ne salta il terzo. Fai una giravolta, guarda in su, guarda in giù. Ma dammela, no? E dai il pallone a chi vuoi tu. Dai che sono davanti al portiere. Bambino davanti al portiere. Dammela! Palo, no! Ma l'ha detto di darmelo, no? E questo qui non si è non sa mai giocare, così? Bambino, Alberto, svegliati! Eccomi. È ora di andare all'asilo! No! All'asilo! A San Siro! All'asilo! No, allora! Ma no! Ma no! Bambino Alberto! Cosa c'è, bambino Alberto? Perché? Cosa c'è? Ma chi siete voi? Ma no, ma stavi niente. Sognando, ti sei addormentato una volta tanto durante il pisolino. Mi sono lì, no, no, ma dov'è lui? Ma lui chi? Gildo, di ma nuovo. No, ma che Gildo? Lui! La voce, no? La voce di prima, The Voice! Era la voce celestiale! Sinatra, ma cosa? Ma come? Era la voce di San Siro, la voce no, ufficiale. Vabbè, ma bambino Alberto, ma stavi sognando, San Siro? Ma no! Siro, ma, sì, no, certo. Non prendetemi in giro, eh! Come no? Cioè, quindi non sono un cacciatore del Milan? Non sono il numero 10? No. Non ho appena fatto un assist a Van Basten? Ma no. Un chi? No. Un cosa? Un assist a Van Basten. Calcio. No, no. Bambino. Calcio? No, bambino. Calcio stellare? No, qui è asilo. Qui è asilo. Anzi. Bambini, grembiuli, minestrine, pipì addosso in molti casi. No, vai, aspetta. Io pipì addosso no, eh. Pipì addosso? No, dai. Io pipì addosso no. Perché tu ti fai ancora la pipì addosso? Ma no. Tu sì, magari. Io no. Io sì. Tu te la fai addosso? Ma cioè... Sovente o è notturno l'episodio? Adesso. E come adesso? In che senso? Adesso tu vuoi dire sempre? O adesso Ma no, l'hai fatta tutta per te, hai fatto la pozza per te. Ma Gildo, è perché tu sei Gildo, non sei la Dio Custode. E ti sei pisciato addosso. Touch with the ground, I'm hotter than I found. I'm on a hunt, I'm after you. I smell like a sound, I lost what I found. And I'm 100 like the wolf. Cioè? Capito, K? 100 like the wolf, cioè 100 puntate in bocca al lupo. Come, no, sei sicuro? Non si capiva. Rifacciamo, vai, vai, vai. Mi piace come la canti, però, anche se non si capisce. 1, 2, 3, 4. In touch with the ground, I'm on a hunt. I'm on a hunt, I'm after you. I smell like a sound, I lost what I found. And I'm 100 like the wolf. Cantava così lui Live Aid, ti ricordi? Ti chiedo asilo! I'm